il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Vivere sull'ERT, ovvero a mezza costa, sul pendio, in particolar modo nelle nostre prealpi. E questo è il titolo di un volume edito l'anno scorso da Mariano Lio, uno studioso di storia locale della zona delle, diciamo, delle prealpi trevigiane, ed è un volume che cerca di ripercorrere la storia, le tradizioni, com'era vivere appunto sull'ERT, sul pendio a mezza costa nel passato. Mariano Lio, che cosa è rimasto di questa vita che difficile anche, che non è poi così lontana da noi oggi? Sì, effettivamente è una vita che era diffusa fino a 50-60 anni fa, fino all'inizio dell'industria dell'occhiale, che poi ha coinvolto tutta la zona del Basso Feltrino. Naturalmente nulla si interrompe definitivamente, quindi anche se questa vita è una vita del passato, ha lasciato degli strascichi naturalmente che arrivano fino ai nostri giorni, a cominciare dall'ambiente. L'ambiente è rimasto. Per un po' è stato un po' lasciato andare, però adesso un po' per la crisi economica, un po' per uno spirito ambientalistico che è un po' ritornato, ci stiamo riavvicinando al territorio. Cosa vuol dire? Recuperare anche delle produzioni, soprattutto la cultura di un tempo che, nonostante ci faccia capire che sono cose del passato, ha una sapienza che è ancora di attualità. Ecco, questo libro si occupa in particolar modo del territorio attorno a Segusino, però in realtà abbiamo detto è la vita che un po' vivevano i nostri, diciamo, antenati in tutta la zona delle prealpi, soprattutto bellunesi e trevigiane. E di questa vita oggi c'è un interesse, soprattutto i giovani, non so, magari sono state fatte delle presentazioni di questo libro, come l'hanno colto? Dimostrano interesse verso il recupero del loro passato? Beh, allora, mentre una volta era una cultura e un'economia diffusa, adesso la cosa particolare è che ci sono delle scelte, cioè chi si riavvicina a questo tipo di economia e di cultura lo fa per scelta, una volta era un obbligo. Ci sono dei giovani che hanno riattivato un po' la cultura del territorio. Quindi, ad esempio, c'è un ragazzo giovane che ha la passione per gli animali, in particolare per le capre. E le capre facevano parte della cultura nostra tradizionale e produce ricotte, robiole, formaggi misti di capra e di vacca. Quindi anche questo si sta ritagliando una fetta del proprio reddito. C'è un altro che in collina ha un allevamento di oche, con cui fornisce i ristoranti locali, ma poi ci sono le malghe, c'è un caseificio in paese che fa tesoro della cultura del territorio, però si adatta ai tempi e propone anche dei formaggi nuovi, al fieno, al peperoncino, si cerca di stare anche ai tempi. Quindi poi ci sono, c'è un istituto che è nato all'interno dell'ULS 8 di Asole Montebelluna che ha istituito le piccole produzioni locali. Questo è stato un aiuto per chi vuole riavvicinarsi alle produzioni in piccole dimensioni, quindi dà la possibilità a un piccolo produttore di fare ad esempio confetture di piccoli frutti, oppure gli insaccati, la soppressa, il salame, i musetti, quelle cose tipiche della pedemontana. Però c'è la possibilità anche adesso con i formaggi di avere dei laboratori di dimensioni piccole e magari ricercare e sfruttare la qualità in modo da proporre qualcosa che vada oltre al livellamento che c'è in genere nelle produzioni alimentari. Ecco, ci fermiamo per qualche minuto, a tra poco. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. Io sento, e quello che non dico lo penso. Qualcosa che succede in silenzio, che anche se non parlo comprendi. In fondo siamo mossi dai sensi, guidati dalle colpe degli altri, deviati da illusori correnti, confusi, felici, lontano. Perché non mi sorridi, ti amo, per quello che non dici ti amo, perché tu sai tenermi lontano, lontano, ah, ah. Torniamo in linea con la trasmissione Il Quadrifoglio. Oggi stiamo parlando di vivere sull'Erte, montagna a mezza costa in un paese delle Prealpi trevigiani, è un volume scritto da Mariano Lio. Che cos'è l'Erte esattamente? Sì, infatti, questa parola così corta di sole tre lettere è il filo conduttore che mi ha permesso di trovare il titolo di una ricerca che in effetti scandaglia il territorio sotto tantissimi punti di vista. L'alpeggio, la vita di mezza costa, l'allevamento, la viticoltura, l'antica produzione del carbone. Ma poi dietro queste cose ci sono anche gli aspetti antropologici, quindi la religiosità, le superstizioni, il dialetto, i proverbi, i modi di dire. E con questo termine, Erte, che vuole dire pendio, ho trovato il comune denominatore. È un termine che mi ha permesso appunto di compiere una ricerca completa su una zona che è a cavallo fra Trevigiano e Bellunese, e quindi sono le prime montagne che si trovano per chi sale dal Veneziano e dal Padovano. E al momento della presentazione, che è stata fatta nello scorso marzo, ho cercato di coinvolgere anche tutte le attività che stanno iniziando e nel campo economico, diciamo, e le associazioni che organizzano manifestazioni anche sportive e culturali nel territorio, ho fatto in modo che fossero tutti assieme per dare l'idea che c'è un territorio che può anche affrontare in un certo modo la crisi proponendo la propria sapienza, la propria cultura. Ad esempio gli amici del presepio di Segusino quest'anno hanno scelto come tema proprio la montagna, il desmontegar, ossia quella fase che avveniva in settembre per cui dall'alpeggio scendevano con gli animali dopo aver fatto i 100 giorni di montagna. Quindi ci sono dei collegamenti che quest'anno fanno sì che questo termine Earth, pendio, faccia un po' da comune denominatore. Ha fatto bene a citare il presepio proprio perché io l'ho visitato e ci sono molte scene che di fatto esemplificano perché si rifanno appunto alla ricostruzione della vita di un tempo proprio di vivere a Segusino, sull'Erte, e quindi c'è proprio l'esemplificazione pratica di quello che lei scrive in questo volume. Sempre del presepio e l'associazione Amici del Presepio sta anche facendo un'opera di valorizzazione del territorio. E forse da un libro come questo si può partire anche per la promozione turistica del territorio, vi sono tantissimi spunti. Senz'altro, perché abbiamo visto che quando si cerca di promuovere il territorio, se si riesce a dimostrare che la storia, anche recente, ha dei modi, trova delle conferme, si riesce più facilmente a riproporre qualcosa. Tutte le manifestazioni che affondano le radici in qualcosa che si può andare anche ad accertare sono più originali, più vere e piacciono di più alla gente. Quindi il territorio, la natura, la storia locale, i prodotti a chilometro zero, sono tutte cose che fanno presa sulla gente e che cercano di invertire questa tendenza al livellamento sia sui prodotti alimentari che sulle manifestazioni. Per cui sono delle chicche che a volte sono veramente curiose e che hanno uno spessore anche culturale. Una qualche curiosità sul territorio che possiamo dire in conclusione? Ad esempio il formaggio Scec, che è diventato il nomignolo che riconosce i segusinesi, deriva da una particolare produzione casearia. È un formaggio che producevano in casa quando avevano magari anche solo qualche litro di latte avanzato e avevano bisogno di produrre qualcosa da mangiare al momento, perché dobbiamo ricordare che fino a 50-60 anni fa uno dei problemi era quello di sopravvivere, non possiamo nascondercelo. Questo nomignolo sta riprendendo quota, c'è gente che chiede cos'è lo Scec, sono stati trovati i tartufi, che è la new entry delle cose del nostro territorio, e c'è la possibilità per una persona che vuole trascorrere anche solo una giornata alternativa di visitare un territorio e passare dalle piccole produzioni alla natura, alla storia locale, alle manifestazioni sportive e anche a delle località come Milies, come Stramare, che dove si respira ancora l'aria di una volta, che crea anche un po' di nostalgia per tante persone. Allora, ricordiamo il titolo: Vivere sull'Erte, montagna e mezza costa in un paese delle Prealpi Previgiani, l'autore Mariano Lio, l'editore Antiga. Dove si può trovare questo libro? Allora, dicono tutti nelle migliori librerie, naturalmente c'è una diffusione nelle librerie sicuramente, qui vicino si possono ordinare naturalmente anche via internet, comunque ci sono a Castelfranco qui vicino, se no a Treviso e in tutte le librerie della zona, soprattutto del Trevigiano. Comunque si possono prenotare e ordinare in tutte le librerie. Grazie. Vi ricordo che per chi volesse visitare il presepio artistico di Segusino lo può fare ancora fino al 7 di febbraio. Passiamo adesso ad alcune notizie con cui andiamo a chiudere la trasmissione. Si svolge a Verona dal 3 al 6 febbraio la 112esima edizione di Fiera Agricola, che quest'anno inaugura una nuova formula di calendario, ovvero apre il mercoledì e chiude il sabato. Fiera Agricola, lo ricordiamo, è la più importante manifestazione italiana del settore. Ad esempio nel 2014, diamo alcuni dati, aveva registrato 140.000 visitatori con una presenza estera del 14%. La manifestazione, tra i vari settori di cui si occupa, contempla quelli della meccanica agricola, della zootecnia, energie rinnovabili, agrofarmaci, vigneto e frutteto. Per il 2016 punta i riflettori su zootecnia e bioenergie con l'obiettivo di sostenere il rilancio anche di questi due comparti. L'ingresso per chi volesse visitarla a pagamento costa 15 euro alle casse della fiera, ma 12 se preacquistato online e 7,5 per chi ha la tessera carta freccia Trenitalia, dal 3 al 6 febbraio a Verona. Passiamo ad un altro argomento, l'inquinamento. Quest'inverno l'abbiamo imparato, gli impianti di riscaldamento pubblici e privati hanno un impatto notevole sulla qualità dell'aria che respiriamo. Il rapporto 2015 dell'Agenzia Europea dell'Ambiente evidenzia che il riscaldamento abitativo contribuisce per circa il 40% al PM10 e per più del 50% al PM2.5. In Italia sarebbero ben 14 milioni gli edifici, ovvero il 70% del totale, che non presentano alcun accorgimento per il contenimento dei consumi e che quindi determinano un enorme spreco di risorse, ma anche appunto un elevato inquinamento dell'aria. Eppure vi sono molte soluzioni e anche incentivi statali che possono agevolare interventi per riqualificare questi edifici. Per saperne di più ci sono molte opportunità, basta cercare su internet o rivolgersi agli sportelli di enti e associazioni. Noi segnaliamo un'iniziativa, una tra le tante, una serata proposta mercoledì 20 gennaio alle ore 21 a Selvazzano in provincia di Padova dal locale Circolo di Legambiente I Ponti e la Selva. Appuntamento al centro comunale Francesco Baracca di via Padova 63 in località Tencarola, appunto mercoledì 20 gennaio alle ore 21. Con questo è tutto, vi diamo appuntamento con il quadrifoglio la prossima settimana. Se volete ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.